mi guardi con quegli occhi fissi che ricercano segreti per rubare la mia intimità. Hai preso tutto quello che vorrei, qui nascosto dentro l'anima, non posso regalarti di più. Prometti sogni fragili per noi, artisti dell'amore che poi vivono di dignità. Vorrei poter guardare dentro te per vedere quanto nero sei. Guardati in faccia e poi Mr. J, Mr. J, quanta bella ipocrisia. Mr. J, Mr. J, compri false vanità. Mr. J, Mr. J, con un gesto porti via. Mr. J, se tu mi dai guadagni facili che servono a distruggere l'arte vera dentro noi, mi uccidi come fanno le maree, fredde e buie dentro l'anima, urlati in faccia e poi Mr. J, Mr. J,